Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti. La domanda più gettonata del giorno è: che cosa ci facciamo io e Pardo, nonché signor Piantaneda, Fabio Cantadone in regia, cosa ci facciamo al noi al Salone del Risparmio? Aspettiamo forse il vice ministro Morando, vice ministro dell'economia, in questa lunga settimana. Ci sono tanti appuntamenti per il governo Renzi che in realtà poi culmineranno martedì nella Cruciani. Martedì c'è la consegna delle chiavi della città di Firenze per i 60 anni di Antonioni. È il grande evento della settimana. È per quello che siamo qua. Primo aprile. Per 60 anni di Antonioni. Ricordiamoci martedì, chiamiamolo Antonioni. Segna. Siamo al Salone del Risparmio. Buongiorno a tutti, amici. Siete sempre tutti convocati, anche fisicamente. Mi dicono che le casse funzionano e quindi ci aspettiamo adesso un assembramento di circa 1.000-1.500 persone. Forse 2.000. Dalla Bocconi. Sì, 3.000 per noi, 50 secondo la questura. Questo secondo è quello che ci aspettiamo. Tanti temi per oggi, no? Come no? Tanti 0024 numero verde, intanto li convochiamo come sempre al telefono, messaggi 349-238-6666, compresi quelli che insultano. Allora, facciamo la borsa dell'infrasettimanale? Io stavo cercando di leggere Repubblica, mi presti la lente un attimo perché è bellissima, io faccio i complimenti, la grafica è meravigliosa, però ho capito oggi, anzi ieri, leggendo Repubblica con la nuova impostazione grafica, che ho un problema di vista, mi avvicino, forse è miopia. Fatti, dobbiamo parlare la mattina a cuore denari con la signorina stamattina sono intervenuto a cuore denari, meraviglioso. Ho proposto di fare uno scambio, uno scambio di coppia, cosa ne pensi? Cioè, come scambio di coppia? Rosciani Carbone a tutti i convocati e io e Pardo a cuore denari, secondo domani me domani parliamo della cistifellea. Borsa dell'infrasettimanale, facile, Milan sale, la Juventus stabile perché vince sempre, quindi grande stabilità. Siamo arrivati al paradosso che il fatto che la Juve vinca di un gol, qualcuno dice beh, però in crisi, però in affanno, però il fiato corto, sì, ma è finito il campionato. L'ascoltatore di ieri che aveva paura di non vincere lo scudetto juventino. Io ce ne sarà qualcun altro? Poi c'era il romanista 0024. Che mi ha detto che sono abbinazzato, fra l'altro è la verità assoluta, nel senso che insomma faccio sovente uso di sostanze vinicole. Saremo anche al Vinitaly, l'8 e il 9. 8 e 9 presenti a Vinitaly, non garantiamo sulla buona riuscita del programma. No, 800240024, intervenite voi, dateci una mano. Allora, chiaro che scende l'Inter, no? Cioè, 0-0 in casa Udinese dopo una sconfitta. Sì, però mi sembra la solita storia, nel senso che l'Inter, che in queste ultime partite ha dato una dimostrazione sicuramente di solidità, perché è sicuramente passata la crisi di un paio di mesi fa, continua ad avere qualche problema nell'aprire le partite bloccate. È un problema che mediamente hanno tutte le squadre, mentre cominciano ad arrivare, ecco qui, i risparmiatori, venite a noi risparmiatori. Magari lasciateci anche qualcosa. Ma no, sì, ho capito, questa è una truffa. Ah, vuoi fare una truffa? Abbiamo dei rendimenti eccezionali. No, dico, l'Inter ha sicuramente una solidità nuova da due mesi a questa parte. Sicuramente è cresciuta molto. Continua ad avere un po' di problemi. Paradossalmente, nelle partite in casa con squadre che si chiudono, è un problema che hanno tante squadre. La Juve non ce l'ha questo problema, perché la Juve il gol lo trova sempre. L'Inter ce l'ha in maniera particolare. Mentre dobbiamo dire che quando ha più spazi, mi sembra che la squadra sia bene. È successo a Verona, è successo a Firenze, insomma. Comunque è un'Inter sfortunata, diciamo. Sicuramente. È sfortunata, è sfigata l'Inter. Cosa volete che dica? Allora, ho detto che non parlo più degli arbitri, si fa una fatica pazzesca a fare così, però. A fine anno sarò preciso su tutti, stilerò io dico solo una statistica, me l'hanno suggerita: 31 partite quest'anno, l'unica squadra che non ha avuto rigore siamo noi. Mi hanno detto che da prima addirittura 57 partite, nel dubbio ci sta o non ci può stare, anche statisticamente è quasi impossibile che non dico, io non dico altro. Su 32 partite che non mai una volta nel dubbio, nel ci sta o non ci sta, non c'è mai a favore nostro e c'è sempre a favore del coro. È impossibile, statisticamente è vuol dire che c'è qualcosa, nel è senso un caso, è un caso proprio di sfortuna incredibile, siamo proprio sfortunatissimi. Allora, Salone del Risparmio Bocconi, siamo all'ingresso, non potete sbagliare, siamo qua con Radio 24. C'è la signorina Ligios con un cartello, che dice siete tutti convocati. Siamo qui. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sagrestano. Allora, sai cosa ti dico? Fossi un giocatore dell'Inter, sarei quasi contento di questa situazione, perché vinco merito mio, perdo colpa degli altri. Però sei ingiusto, secondo me, perché Mazzarri ha ragione, perché all'Inter mancano dei punti, premesso che poi il campo secondo me alla fine a grandi linee dice sempre la verità, però l'Inter qualche punto in più doveva averlo. Comunque ci sono state delle settimane molto complicate nelle quali qualche episodio arbitrale, premesso, lo dico per la millesima volta, che non credo ai complotti, però insomma ci sono state sicuramente delle settimane nelle quali sarebbe stato più semplice lavorare per Mazzarri con dei risultati un pochino migliori. Tu pensa a Inter-Chievo, una partita incredibile, la partita dell'Inter dove viene annullato un gol incredibile all'Inter in un momento difficile della stagione come quella, magari tre punti ti danno uno spunto in più, no? Tante volte, tante situazioni sono state, dai, adesso non cerchiamo di essere onesti però oggettivi. Questo è il grande alibi, cioè voglio dire, è vero, cioè, questo è oggettivo all'Inter, premesso che non, come a te non, a me non piace la classifica con e senza, ma assolutamente la fesseria, però la Juve è prima meritatamente, la Roma è seconda meritatamente, il Napoli è terzo meritatamente, per quel me. Primo tempo pessimo ieri non lo ha giocato Gervasoni nel no, primo tempo, oggettivamente infatti, l'Inter ha giocato veramente infatti, il problema tattico dell'Inter c'è ed è soprattutto secondo me riuscire ad aprire le scatole difensive delle squadre, si è girata qui la ragazza dello staff su scatole difensive preoccupata di squadre che si chiudono, e questo succede sempre. L'Inter in questo buon momento, quello dei sei risultati utili consecutivi prima della sconfitta con l'Atalanta, ha pareggiato in casa col Cagliari, certo, ha perso adesso con l'Atalanta, ha pareggiato contro l'Udinese, sono tutte partite in casa che sono, mentre Piantanita fa dei gesti volgarissimi, vuol dire che c'è il traffico. Ah, c'è il traffico, non lo sai, è ancora imparato, da quando quel cambio va su e giù, ma che roba è, ma è una cosa di una volgarità inaudita. Piantanita, da uno come te non me l'aspettavo. Traffico. Su San Siro forse bisogna un po' benedirlo, visto che ancora non si segna. Guardi, ho fatto un'ora e mezzo di conferenza stampa, mi sembra la cosa più giusta l'ha detta lei. Alla fine, quando poi succedono queste cose, la squadra gioca così, crea tanto e non entra mai la palla, altri episodi non vengono visti. Cioè c'è poco da continuare a parlare. La partita si è vista tutti e... convocati. Siamo sfortunati, di più, non voglio più parlare di arbitri. Cioè, siamo alla Bocconi di Milano, Salone del Risparmio, ma cosa stai guardando? Tutto città, Sto guardando Tutto città su internet, ma siamo alla follia. Vabbè, ma voglio dire, io sono multitasking, sono un po' come il signor Piantanida, C'è un ascoltatore che prima ha scritto, adesso mi ha elevato gli sms, ma prima ha scritto, ecco, chissà se anche oggi riuscirete a non dire neanche una parola su Scuffè, no, ne diciamo diverse di parole. La prima è pazienza, perché a 17 anni secondo me bisogna avere, io sto facendo un tifo indiavolato per questo ragazzo. Pardo se avere... ipocrita, mi scrivono, la Juve ha 9 frutto degli arbitri, saranno 9 punti in più, non lo so, altro che il campo alla fine mette a posto tutto Antonio, che evidentemente non è... della Juve, Elena, altra cosa, da quando sono finiti i soldi all'Inter sono finiti gli scudetti. L'Inter come l'Italia è colpa degli arbitri, scrive un ascoltatore. Ascolta, Scuffetta, adesso cominciamo a parlare a proposito con gli ascoltatori, vedo già che ce n'è uno in linea o diversi, non so perché mi hai tolto anche le telefonate. Vabbè. Cercando una casa a Firenze. Andiamo da Giuseppe a Firenze. Giuseppe, dov'è via Rinuccini a Firenze? È una zona interessante? Giuseppe? Via Rinuccini non lo so, per essere sincero. Poi se vuoi chiedere la casa via, Piazza Duomo, magari ti posso dire. Piazza Duomo la sanno tutti. Ma andrai martedì alla consegna delle chiavi per i 60 anni di Antognoni? L'appuntamento istituzionale della settimana più importante. Antognoni, io sono interista, però Antognoni è stato un grande. Qualsiasi tifoso dovrebbe ammirarlo come calciatore, no? Beh, sì, sicuramente è chiaro. Grande giocatore, ma infatti, giocatore. Ma infatti è così, campione del mondo, ma ci mancherebbe simbolo altro. Di una città, insomma, comunque voglio dire, adesso a parte le battute, la centralità di Antonioni per Firenze è clamoroso. Non so perché sto parlando di Antonioni, ma forse perché il grande appuntamento istituzionale della settimana via, dopo la visita via. Di Obama. Renzi martedì farà questa cosa. Sei partito cosa... da una via di Firenze, cos'era? Via Rinuccini? Ma sì, perché stavo dicendo una cosa. Giuseppe, dica sull'Inter. No, sull'Inter dico che veramente al di là della sfortuna, contro la sfortuna non si può fare niente, però con questi arbitri veramente abbiamo raggiunto il massimo, perché oltre ad avere sei arbitri, che c'è più arbitri, che i calciatori non riescono mai a vedere sull'Inter questi falli che sono veramente paradosso, dai. Ma secondo lei non riescono o non vogliono? Perché qualcuno dice non c'è vogliono. C'è il disegno o non c'è il disegno? No, non c'è, non vogliono, a parte al di là del disegno, ma non vogliono. Veramente Gervasone ha combinato quello con Borja Valero e anche quello lì è stata una cosa scandalosa, no? Ma lei non crede che sia abbastanza, non voglio dire comodo, ma possa diventare un alibi troppo grande? Questo degli arbitri è l'enorme paravento dietro cui si butta, o il tappetone sotto cui si butta il fatto che ci sono dei difetti in questa squadra anche strutturali, si rinforzerà l'Inter certamente. Io sono il primo a essere critico contro l'Inter, perché veramente lascia troppo, anche ieri sera ha lasciato un tempo all'Udinese e roba, quello sono il primo, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, no? Se il rigore c'è, diamolo, perché non lo devi dare, capisci? Sì. Cioè, sei arbitri, cosa stanno a fare in campo? A guardare, sì. Non lo so, forse guardano le belle ragazze intorno agli spalti, forse non può so, essere, quello sarebbe una spiegazione. Sarebbe una spiegazione nobile quella, sicuramente. Però solo quando gioca l'Inter, quando l'Inter è una bellissima tifoseria. Sicuramente se quel rigore era a favore della Juve e del Milan lo fischiavano. Sì, penso, perché, so, perché le milaniste e le juventine non sono così attraenti, lei dice. Sicuramente. Giuseppe, io la saluto, la ringrazio, rimango in Toscana con Michele da Pistoia questa volta. Interessa via di Pistoia? No, Pistoia bellissima. Conosci tutto. Tutto. Michele, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Niente. Michele, ma lei che ricordi ha della Pistoiese in Serie A? Stagione 80-81, se non sbaglio, vero? 80-81. No, a quei tempi là io non ero un po' più giovane, non è che me ne intendevo tanto di calcio, per cui non seguivo la Pistoiese, poi sono sempre stato interista, ma non interista sfegatato, interista giusto, come si dice, sì. Giusto. Cioè, chi non mi piace... Chimenti? Chi c'era? Chimenti? No, quell'anno c'era Luis Silvio, noto crack, esatto. Dell'anno e della poi c'era Chimenti. C'era Frustalupi, secondo me. C'era Frustalupi, Frustalupi. Va bene, adesso lo scopriamo. Va bene. Prego, quindi dica. Lei è interista, però è un interista moderato. Moderato, che sono ampiamente incazzato. Ecco. Ma veramente. Poi della moderazione, sì. Perché? Fallo estremista. Alla Juventus togliamo i regali che gli hanno fatto e li leviamo quello che hanno negato all'Inter. La Juventus aveva 20 punti meno e l'Inter aveva 10 punti di più. Non nego che la Juventus sia una cattiva squadra, è una buona squadra, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. È favorita a vincere il campionato, dagli anni c'è da tutto, basta, chiuso il discorso, non c'è nulla da dire. Ecco. Sì, ma io invece dico, Michele, dico che facendo così si dà ragione a chi continua a lamentarsi, no? Perché mi dicono, ok, allora, a noi non ci danno niente perché c'è il potere oscuro che ci nega, i poteri forti che ci negano qualunque cosa, invece la Juventus vince perché sono gli arbitri. Se non fosse stato così, l'Inter avrebbe vinto in carrozza lo scudetto. No, fra l'altro posso dire una cosa fantastica, per un momento di Radio Verità, che dimmi. È arrivata la security, perché forse ci sono gli altoparlanti che sparano la voce troppo alta. Non so se i due signori della security sono juventini e sono quindi contrari a quello che ci ha detto il nostro ascoltatore. Sono molto seri. Sono molto seri, quindi assumiamo. Invece ricordiamo che la Pistoiese tornerà tra i professionisti, perché prima nel girone E di Serie D con più 10 sul Foligno, e che in quella Pistoiese storica dell'unico anno in A c'erano Mascella, Pratesi, Berni, Bellugi, Marcello Lì, Sergio Borgo, capitano. Agostinelli, Frustalupi, avevo 6 anni. Mi era molto simpatica la Pistoiese per via della maglia arancione. Sì, molto bella. Io non lo so, scusate, tornando a bomba sull'argomento, io questi calcoli aritmetici, più 20, meno 10, faccio fatica a farli. Io sono convinto che, e l'ho detto in passato, sono convinto che all'Inter in certi momenti quest'anno ci siano stati gli episodi che non l'hanno favorita. Non penso al complotto, penso che qualche punto in più poteva averlo. Credo però che sarebbe pericoloso per l'Inter fermarsi a questo alibi qui. Diventerebbe un alibi e invece la squadra ha tante cose da migliorare. Non penso che cioè non credo che l'Inter con sì, degli altri arbitri era, poi si arrabbiano tutti, dai, su, mandano dei messaggi clamorosi, però ma sì, ma sono ragazzi, ma noi vediamo bene a tutti, Come questo, aspetta, vediamo dell'acqua. Dimostri di essere un cretino, i rigori regalati a Barotelli l'anno scorso te li sei dimenticati. No, me li ricordo abbastanza, perché poi io tendo a dimenticare queste cose qui, però vedi che alla fine in questo modo finiscono per avere, cioè per l'alibi funziona, no? Dicono, perché il ragionamento che fanno i tifosi moderati è questo, cioè il ragionamento aritmetico, la Juventus secondo avrebbe me 20 punti in meno e l'Inter 10 in più, e il ragionamento quindi aritmetico non ha nessun significato, anche perché poi ci si ricorda sempre degli episodi a sfavore e mai di quelli a favore, questo in generale. Ribadisco, per me l'Inter qualche episodio sicuramente c'è stato, il fatto che non abbia ottenuto nemmeno un calcio di rigore è statisticamente molto, molto particolare, ma sì, da qui a pensare che la squadra non abbia problemi, per esempio il problema di scardinare le difese che si chiudono, che mi sembra tatticamente l'emergenza fondamentale di questa squadra, visto che tante volte inciampa nelle partite contro le piccole o contro le medie, questo è evidente, secondo me è interesse dell'Inter non darsi gli alibi, è interesse dell'Inter ragionare, certo, per risolvere i problemi. È poi quello che siamo all'esterno e non ce ne può fregare di meno, io onestamente qualche rigore, però vedi che il giochetto funziona, perché ma non funziona, basta ascoltare le telefonate. Può funzionare per dare un po' di guazza, come si dice a Roma, al tifoso arrabbiato, ma non funziona per risolvere i problemi. L'Inter deve migliorare, ha fatto un acquisto importante con Hernanes a gennaio, in un momento in cui Toir si è reso conto che doveva spendere dei soldi, che doveva scendere in campo in maniera un pochino più robusta, e adesso poi vedremo che campagna acquisti farà. Si sta rinforzando, cioè, però quelle sono le cose da fare. Noi, ripeto, valutiamo dall'esterno e quindi veramente in maniera tranquilla. Per tenere buono il pueblo interista, dici, guarda, non ci danno i rigori, come facciamo così? Non possiamo vincere lo scudetto, ma l'Inter in questo momento non è una squadra scudetto, e anzi penso che arrivando quarta avrebbe fatto probabilmente il massimo considerato l'organico. Ci sono tifosi arrabbiati perché gioca sempre Guarin, c'è chi ci dice se l'Inter è penalizzata al Toro sarebbe prima in classifica, non capisco perché da ottima trasmissione gravata vi state buttando via così, non voglio, parliamo di arbitri, il signor Luca è probabilmente ragione, dite agli interisti che la Juve ha dato 4 rigori io volevo parlare di Scuffetti, vedete voi, poi se chiamano e parlano di arbitri, adesso sentiamo Giacomo Venezia, Sanco Catania, però volevo parlare un attimo di Scuffetti. E fra poco ne parliamo anche con un ospite importante. Però dicevo prima, bravissimo, però a 17 anni devi avere, secondo me, lo spazio e il tempo per sbagliare, cosa che fatalmente succederà. Un portiere di spazio e di tempo ne ha meno di altri rispetto ad altri giocatori. Cioè, ti ricordi, 2 anni fa si diceva Perin titolare fisso ai mondiali. Perin è un ottimo portiere, sta crescendo molto bene, però questo senz'altro, quello che tu dici è verissimo, anche perché rispetto ad altri ruoli vedi la differenza, no? Certo. Un centrocampista centrale che ha un mese opaco prende 5,5 magari. Certo. Un portiere che ha un mese opaco rischia di fare un paio di errori che decidono le partite e che gli cambiano completamente l'immagine. Ha un ruolo di responsabilità enorme nel bene e nel male, prodezze o miserie. Piantanita, dobbiamo chiudere? Piantanita oggi fa solo gesti che sono sempre borderline, vagamente scene. Vabbè, di rara volgarità. Allora, ci fermiamo. Allora, Giacomo, c'è la borsa. Giacomo e Salvo, state lì. Venezia, Catania, siamo sempre a Sole del Risparmio, stiamo qua fino alle 3:20. Ma magari credo che la nostra presenza qui oggi abbia spinto in alto le borse. Fra poco lo scopriremo, ma penso che vediamo come vanno. Sentiamo, borsa. Tutti convocati. Sì, ma soprattutto il reparto difensivo mi sta aiutando molto, soprattutto nelle prime partite, perché sanno che non ho ancora l'esperienza di un veterano, diciamo, e mi stanno aiutando molto. Io ho chiesto alla maglia Andanovic perché ho sempre detto che era il mio punto di riferimento come portiere. Il mondiale rimane un sogno per me, perché è un sogno per tutti. Ovviamente io sto lavorando per fare bene domenica dopo domenica. Non per immodestia, però non lo vado nemmeno a chiedere in giro come si para. Se posso ci arrivo da solo, altrimenti è uguale, non c'è problema. Quando gliel'ha detto Scala? Me l'ha detto stamattina, domenica mattina. Io comunque anche contro la Cremonese ero in ballo, pensavo di giocare, magari non mi ha fatto giocare. Oggi pensavo di non giocare, mi ha fatto giocare, per cui va bene così. E che cosa ha pensato subito? Mamma mia, il Milan. No, sinceramente è quello che mi ha stupito, e forse sto ancora sognando, no? Io sono andato in campo e pensavo di essere a giocare con la Primavera, forse per quello che non ho fatto male, capito? Perché ero tranquillo dentro. Sostegno di Jonathan. Jonathan al cross, Stupet, primo intervento della sua partita. Nagatomo gli chiama il pallone, poi si chiude la mossa difensiva, torna Icardi, Hernanes, Stupet, il calcio d'angolo. Di testa Ranocchia, c'è Palacio, mette il pallone sul secondo palo, Icardi si coordina, Stupet la perde ma la ritrova. Il cross morbido, Icardi a vuoto, poi arriva Cambiasso, Stupet, e il colpo di testa di D'Ambrosio, non è entrata. Questa non era male, guarda, ho scritto Scuffetti ieri sera e Buffon alla sua età, 17 anni, esordio con il Milan, in un Milan, un Parma-Milan, Parma-Milan 0-0, e li abbiamo sentiti... Ho visto mille volte quelle immagini, quelle interviste, è molto divertente, insomma, poi, sai, col senno di poi è più facile, però a rivederlo così ti sembra già un predestinato, sì. Però perché lo sai che andrà a finire così la sua, sì, carriera. Oggi, fra l'altro, sono 21 anni dall'esordio in Serie A di Francesco Totti. Oggi. Compleanno di esordio, 21 anni fa esordito in Serie A, il 28 marzo del 93. Magari tra un po' andiamo pure a sentire questo. Salvo Catania, buongiorno. Giacomo Venezia, prima, cioè, rispettiamo la priorità. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, ma comunque siamo da Firenze, A me ha scritto Venezia, non so che dire. Beh, città d'arte, tutte e due, meraviglioso, insomma, no? Dica. Non ho problemi. Dica. Allora, io chiamo per fare un paio di considerazioni. Allora, la prima è che secondo me l'Inter è una squadra che merita, per l'organico che hanno, più del quarto posto. Sì. La seconda è che nella sostanza... Che è successo? Che è successo? Che è partito? No, ma è stata la telefono, scusa. Che cos'è? Che suoneria era, però? Che suoneria era? Era il tango dei mentirati. Qualità, grande qualità musicale, sì, sì. E poi l'altra la era è che vi sento sempre dire è un alibi il discorso degli arbitri, e a lei signor Genta in particolare, l'altro giorno ho sentito dire con un ascoltatore che chiamava, la prego, dica che la Juventus ha vinto meritatamente senza l'aiuto degli arbitri, e io ero d'accordo. Allora, dove voglio arrivare, perché non voglio arrivare nel tempo di quello che è necessario, sì, al fatto che secondo me non date la necessaria chiave di lettura riguardo agli errori arbitrari che riguardano l'Inter e alla gestione degli arbitri in generale, che sarebbe, perché partite dal presupposto che non c'è un disegno. E secondo me è lì l'errore. Ah, quindi perché c'è un disegno evidente. Cioè, quindi Nicchi e Braschi vogliono tirarlo in saccoccia all'Inter. Questo stiamo dicendo questa cosa. E se è così, non se lo è so, così, ragazzi. Io non lo so, dico, però l'Italia, se è così, l'Italia Mazzari è un paese, l'Inter l'Italia ha stravinto, è no? Il paese di Tangentopoli, di Calciopoli, è il paese nel quale, diciamo, le anime candide, un po' ingenue, tipo la mia, spesso vengono contraddette. Io non ci credo ai complotti, a costo di sembrare ingenuo e un po' fesso. No, ma poi faccio fatica a vederli. Diverso può essere il discorso normale di sudditanza nei confronti della grande squadra, che è un condizionamento, anche quello non giusto, ma normale, che ti deriva. L'Inter da... non condiziona. L'Inter non è una grande squadra che non, appunto, che sarebbe una grande squadra che non condiziona, quindi se faccio così... fatica, mi annoia anche un po'. C'è Giovanni Galli, Giovanni Galli, ciao, buongiorno, Giovanni. Sì, Giovanni, ciao, Galli, Giovanni Galli, ascensore umano, tu sei l'orgoglio, del calcio pisano. È andato. Te lo cantavano a Firenze. L'abbiamo perso. Che cosa? Ti cantavano Pardo che ho perso da un po'. Ti cantavano questa, perché questa me l'ha detta Pallavicino, che è un Carlo Pallavicino, che è un amico, un procuratore, e possiamo dire un tifoso della Fiorentina, sì, abbastanza certo, acceso, che dice che ti cantava queste cose. Però ma era stato lui che la cantava, era da solo, ricordo. Però è bello ascensore umano, eh? Se l'orgoglio è calcio pesante. Senti, ma dimmi di scuffetta, prima poi ti chiedo ovviamente altre cose. Ma non si sta esagerando un po' nei paragoni e nei paralleli? Lo abbiamo fatto anche noi, facendo sentire le dichiarazioni di ieri di scuffette, quelle di Buffon alla sua età, dopo il debutto, eccetera, eccetera. È chiaro che il paragone è implicito. Però, dicevo prima, un giocatore così giovane deve avere spazio e tempo per sbagliare, e un portiere ne ha meno di altri. E infatti, questo purtroppo è la chiave di tutto. Cioè, quando mi parlano che dice la scuola italiana non riesce più a produrre portieri, non è vero questo. È il fatto che ormai non si riesce più a tutelare un portiere giovane, perché basta che tu guardi sia la Serie A ma anche soprattutto la Serie B. Si parte col portiere giovane, le prime 5-6 domeniche le cose non vanno bene, ma cosa che cambiano, cos'è? Un portiere. Cioè, certo. è proprio una cultura la nostra che non accetta, no? E non riesce ad avere la forza di aiutare questi ragazzi a crescere. E se tanto in panchina non si impara nulla. Quando ti dicono dai via, stai 2-3 anni in panchina, impari, vedi. No, scusate, ma non è così. Si impara a sbagliare, si impara a fare le cose giuste, a mantenere l'equilibrio, a cercare la concentrazione. Se stai in panchina, responsabilità ne hai zero. Posso stare davanti alla televisione, la stessa cosa. Ma certamente che è ovviamente così, no? Un giocatore deve giocare. Certo, Scuffè ha avuto questa opportunità. Per chi non conosce il calcio giovanile è sicuramente una grande sorpresa, ma lui al mondiale ultimo, under 17, è stato eletto come miglior portiere del mondiale. Non ci sbagliamo, per cui voglio dire, non siamo di fronte a un ragazzo che ha... Ma le pressioni, Giovanni, le pressioni ce ne sono molte meno, cioè nel calcio giovanile, anche con la maglia nazionale, le pressioni ce ne sono infinitamente meno, e poi il portiere è anche l'unico ruolo in cui il turnover non esiste. No, appunto, cioè secondo me è la più grossa o giochi o non giochi, o giochi quello, o non giochi, o giochi da una parte o non giochi dall'altra. Ma devo dire, Giovanni Galli andrà presto per Tiki Taka a intervistare Scuffet e a fargli una specie di pagellina tecnica. Ce l'anticipi a tutti i convocati? Cioè, quali sono i margini di miglioramento? Dov'è molto bravo? Dove ti sembra un predestinato e che cosa invece deve ancora migliorare tecnicamente? Ma credo, guarda, che se a 17 anni uno pensa di essere già arrivato, è l'errore più grande che può fare nella sua vita, sportiva. Credo che io ho smesso a 38 e andavo ancora all'allenamento pensando di potermi migliorare di un millimetro, che ne so, nella parata sulla mia destra, oppure di un centimetro nell'uscita. Questo deve essere, no, la molla che ti fa arrivare a certi livelli. Questo ti deve dare la spinta sempre per migliorarti e cercare sempre, appunto, nell'allenamento la ricerca è quella fondamentale, quella della concentrazione soprattutto, ma quella della volontà di migliorare e di capire quali sono i tuoi limiti. Senti Giovanni, è ovvio che la domanda te la facciamo perché i giornali li abbiamo letti tutti. Oggi cosa ti ha detto ieri Galliani? È vero che andrai a fare il direttore sportivo del Milan? È una voce, una bugia? Cosa c'è di vero in questo? Allora, credo che tutto sia nato mercoledì mattina. Allora, sì, io ero in centro in bicicletta a Firenze perché svolgo un'attività da consigliere comunale e passando in Piazza della Repubblica ho visto quattro guardie del corpo e Galliani. No, mi sono fermato per educazione, perché credo che la mia storia mi ha portato ad avere un rapporto diretto da giocatore sotto il dottor Galliani, la mia storia nel Milan, e poi dopo comunque nel mondo del calcio ci si incontra sempre, ci si trova sempre. Mi sembrava opportuno salutarlo. È stato lì che lui ha deciso di farti nuovo direttore. No, sto scherzando. In mezzo al traffico. Ci siamo fermati a prendere un caffè in compagnia di altre persone e abbiamo chiacchierato un po', insomma, anche come l'hai visto? Come l'hai visto? Ottimista, turbato, fiducioso? Dentro c'è sempre il fuoco dell'uomo di calcio che si misura sempre domenicalmente, non è un uomo arrivato, uno dice vabbè ma io ho fatto questo e vivo di rendita, non è così. Dentro c'è ancora questo fuoco acceso e lui non sopporta logicamente no, quella classifica di oggi, ma mi sembra normale, mi sembra naturale, ecco. E lui si arrabbia proprio perché non riesce il Milan a esprimere quello che si aspettavano. Questo è stato un po' il succo un po'. Poi abbiamo ricordato anche addirittura la cosa che mi ha sorpreso, devo dirti in maniera molto positiva, è che quelle altre persone che erano lì gli ha detto ma te sei stato al Milan, allora dall'86 al 90 hai vinto con il Milan questo e questa, cioè si ricordava tutto. Questo mi ha piacevolmente sorpreso, ma non mi aspettavo, ecco, così a distanza di anni, che di tutti i suoi giocatori lui si ricordasse che cosa avevano fatto nel Milan e quanto avessero vinto nel Milan. A dire la verità, sorprende relativamente. È enciclopedico, insomma. Io penso che appunto come tutte le persone può essere discussa e deve essere discussa, perché negli ultimi anni ci sono stati errori, ci sono stati problemi di budget, insomma non è che, però sul fatto che sia un tifoso del Milan, un appassionato e che abbia vinto parecchio, insomma che questo sia oggettivo e non... credo che non riconoscerglielo significa essere intellettualmente disonesto. Ma quindi Giovanni, prima di salutarti, per farci capire, quindi non vai a fare il direttore sportivo del Milan, cioè è tutta una balla, una montatura, una voce, eccetera. No, io spero ci sia del vero, come no? Va bene, il virgolettato quindi è Galli 2 punti, Milan arrivo, va bene, non lo carichiamo, facciamo Milan arrivo. No, voglio dire, l'uomo giusto sono io. Ma scusate, ma gente che ha vissuto 40 anni di calcio, come sottoscritto, viene fuori una notizia, io stamattina viaggiavo a 2 metri da terra, cioè voglio dire, la soddisfazione, la gioia, soltanto che il mio nome possa essere messo in quella situazione. Cioè, ho una giornata qui a Firenze, fra le altre cose c'è anche un bellissimo sole, io sono doppiamente felice, insomma, voglio dire. Allora te la sei cercata, mi devi dare un altro minuto di pazienza, perché dopo il traffico ti chiedo, ma molto brevemente, che cosa faresti da direttore sportivo del Milan? Certo. Sandir, no? Intanto traffico. Convocati. Allora, Giovanni Galli, direttore sportivo del Milan, magari, forse, no? Che cosa farebbe per il Milan? No, non mi mettete in una situazione di imbarazzo. Ripeto, io sono strafelice che il mio nome sia stato accostato al Milan, perché la mia storia, voglio dire, è legata anche a questa società, per cui già sono felice di questo. L'augurio, magari stasera prima di addormentarmi una preghierina la faccio, insomma, voglio dire, no? Però detto questo aspettiamo gli eventi, insomma. Oh, se hai bisogno di noi ci siamo, dobbiamo parlare con Galliani, lo facciamo volentieri. Senti, fa una cosa, sbrigati a fare questa intervista a Scuffetta per In, questa rubrica per Tiki Taka che abbiamo messo in piedi. Sì, è bellissima come idea, vero? Se ti chiamo, io penso di sì, insomma, perché bellissimo, comunque... No, anche perché insomma, abbiamo col studiato pallone, stamattina, col pallone, dai. Col pallone. Stamattina abbiamo già buttato giù, via, un'idea di quello che vorremmo andare a fare. I portieri, Giovanni ce lo può confermare, sono una specie di sindacato. Io ho un mio amico, per esempio, che tifa per i portieri, lo posso mal compagare. Anche un giornalista strana, giornalista apprezzato, futuro scrittore, fatto quotidiano, bravissimo, talentuosissimo. Lui è un grande appassionato di portieri. C'era un periodo che viviamo insieme e non è che c'aveva la squadra nel cuore, diceva, però oggi Fontana è andato molto bene. Lui ti fa per Fontana. Poi i portieri li vedi sempre che parlano fra di loro, perché evidentemente poi c'è questa leggenda secondo cui i portieri sono tutti mezzi matti, estrosi, eccetera. Esatto, invece no. Giovanni Galli, massimo. Siman, com'era Siman? Il mio mito, com'era Siman? Credo che sia migliorato negli anni. All'inizio lasciava un po' a desiderare, perché faceva prestazioni straordinarie, e non so se ti ricordi la finale con il Barcellona. Grazie. No, vabbè, il portiere, guarda, concludo con il discorso dei portieri. Sai, noi il ruolo del portiere comunque ha 20 avversari, perché quando sei in campo non devi guardare solo quello che fanno gli altri, ma devi anche pensare all'evenienza, alle opportunità che un errore di un compagno, una deviazione di un compagno ti possa mettere in difficoltà. Per cui è vero che oggi il calcio nuovo comprende anche il portiere, ma quando sei in possesso di palla, ma quando la palla ce l'hanno gli avversari, sono tutti avversari, anche i compagni di squadra volendo, perché ripeto, su un tiro in porta, una deviazione, comunque devi intervenire anche su una deviazione di un compagno. Grazie Giovanni, abbraccio. Ciao, grazie a voi, ciao ciao. Mi raccomando, la preghierina ciao. Di stasera. A chi si prega per diventare direttore? Non lo so. Giuro a che Silvio, non lo so. A Silvio e a Adriano salvo. E a Barbara. Salvo. Da salvo. Salvo, buongiorno. Sì, buonasera, grazie per avermi chiamato. Gente, grazie. Io volevo dire una cosa, più che altro diciamo, il mio punto di vista. A me piacciono le trasmissioni pepate, quindi più polemiche ci sono, meglio è per me. Quando si parla di calcio è come se io, cioè, non mi interessa, non so il perché. Questa ormai sto diventando un pochettino pazzo. E poi volevo dire, quindi ben vengono tutte le polemiche, Mourinho ma, e quant'altro. Ma no, ma, io è un punto di vista mio, io mi diverto. Le trasmissioni mi fanno impazzire quando incominciano le polemiche. Mentre volevo dire una piccola differenza, cioè una grande differenza, perché la Juventus in Italia giustamente vince e in Europa no, è normale, è semplicemente la differenza. La Juventus in Italia si comporta come un bambino viziato, lo viziano e gli danno tutto quello che vuole, quando esce fuori fa danno, è tutta questa la differenza. Quindi per me non vedo altro, e la Juve continuerà, ha una Coppa dei Campioni ogni 15 scudetti, questo è un dato assolutamente proprio, cioè, mostruoso. Ne dovrebbe avere almeno, non dico quanto il Milan, ma ne dovrebbe avere almeno 5. Sì, però ci sono anche le finali perse, che ovviamente i palloni che girano. Sì, l'ha vinta ai rigori con l'Ajax, ma ha perso quella con Real e ha perso quella col Borussia Milan. Dortmund e quella col Milan. Con insomma, Milan. Dai, secondo me il calcio europeo, il calcio di coppa è una competizione che ha regole diverse, dove l'imponderabile, l'episodio pesa di più. Mio idolo Carlo Zampa. Carlo Zampa, per celebrare i 21 anni idolo. Di Francesco Totti, facci un editoriale. Buongiorno, come va? Bene, benissimo. Siamo bene qui a Milano, Salone del Risparmio. Salone bene, del Risparmio. Grande quando ho detto prestigio. Andiamo a pranzo, no, si risparmia. Arriva la cacio e pepe, no, dobbiamo risparmiare. Quindi niente, siamo anche il Salone del Digiuno questo. Facci un editoriale su Totti, 21 anni di calcio ad altissimi 21 livelli. Anni, 21 anni e non è finita qui, bisogna dire, perché parliamo comunque di un giocatore che davano tutti già per finito 6 o 7 anni fa, e invece continua a stupire tutti per la sua grande classe, per la sua serietà, la sua professionalità, ed è ancora una volta il protagonista, addirittura ecco, c'è la possibilità che possa andare a fare questo ultimo mondiale della sua carriera. Insomma, lui ci tiene tanto, io glielo auguro veramente di cuore. Ecco, passati 21 anni, io penso a quanti ragazzi hanno avuto la fortuna di vedere la Roma solo con Totti. E il gol più bello che hai commentato suo, non il più bello, ma quello che ti rimane dentro. Quello che rimane dentro rimane sempre quello della gara, quella col Parma, il 17 giugno del 2001, quello è stato il gol che ha sbloccato la partita, che poi ha dato in là la vittoria dello scudetto. Ma insomma, ricordo il primo gol che ha fatto. Ce lo rifai? Te lo ricordi a memoria? Ce lo rifai in radio, dai. Rifarlo così non ci riuscirò mai. Non c'è. Però potremmo fare un po' di audio io e Genta. Dai, ti creiamo un po' l'atmosfera. Piantarina, non ci abbiamo un effetto, eh. Non è la stessa cosa. Sì, le musuela fa boni. Non andrà bene, dai. No, l'ultima cosa, Carlo, invece ricordami uno dei miei preferiti, derby, gol di Balzaretti, com'era? Giallo come il sole? Giallo bello di casa, non ricordo rosso, rosso lui e giallo con i capelli, era giallo rosso. Biondo era diventato tutto rosso per gridare al mondo la sua gioia, era diventato proprio giallo rosso. Era per caso questo? Era questo qui? Cross del capitano! Balzaretti! Balzaretti! Balzaretti! Federico! Federico, bello de casa! Sei diventato tutto rosso! Con i capelli biondi sei giallo e rosso vero! Bello, altri 3 anni da contratto! Altri 3 anni da contratto! Idolo assoluto, Carlo Zampa è bello di casa, è proprio bello di casa, è bello di casa, è tipico romano, dai, sì, di Liga nostra. Bello, grazie Carlo, ciao, grazie a voi, vi abbraccio, ciao, a presto. Ciao. GR, poi torniamo, questa è del risparmio, siamo all'ingresso. La Ligio ci ha portato l'acqua, si risparmia, ma sull'acqua non badiamo a spese. Dai, GR e poi vi aspetto, vi aspettiamo qui. Tutti convocati. Here we go. Volevo dire una cosa, siccome sì, c'è un sacco di commenti, ce n'è uno però che voglio dire proprio. Ci scrivono: non so come farà dare voce a certi radioascoltatori, poi dite di essere imparziali. Nello specifico è uno che ci accusa di anti-juventinità, poi ci sono quelli che ci accusano di juventinità. Su una cosa vorrei essere chiaro: che non è che gli ascoltatori li selezioniamo, ecco, cioè non è che c'è il casting per l'ascoltatore. Chiunque può chiamare un numero che io non mi ricordo, ma che c'è a memoria. 0024 ed è un grande happening. Non è che... Mentre fra poco si svolgerà il casting organizzato da Piantanida per le stagiaire di tutti i convocati, ma sempre perché Piantanida è in una tempesta ormonale ormai. Ormai dai contorni veramente sta sfuggendo di mano la situazione. C'è Fabio da Napoli. Fabio, buongiorno. Il signor Fabio, sì. Tu sei stato selezionato, vero? Ti abbiamo chiamato noi, ti abbiamo mandato anche 50 euro per intervenire. Sei pilotato, vero? E quindi sappiamo già quello che sei corrotto. Non sarebbe stato male. Mi ascoltate? Sì. Ah, ecco. No, dicevo, 50 euro non erano male, però il biglietto era meglio. Sì. C'ho un aneddoto, perché ho conosciuto Buffon il giovedì prima del suo esordio. Andammo a mangiare al ristorante Il Vascello a Parma, che era famoso, che era benissimo. Adesso ci dica esattamente il menù. No, che il hanno menù mangiato? Spaghetti a vongole, che era un ristorante di campani, quindi si mangiava pesce. Non c'era nessun calciatore del Parma, contrariamente a quanto ci avevano detto, però il cameriere si accomodò vicino a quello che poi sarebbe diventato il portiere della nazionale. Sì. Lui è il portiere in secondo del Parma, e noi dicevamo: e chi è? Un ragazzino andava avanti e indietro con questo telefono sempre pronto che squillava. E niente, ci mettemmo a parlare un attimino, lui ci faceva i complimenti per il Napoli, all'epoca gli aveva venduto Cannavaro, Zola, stava svendendo tutto, Sarlaino, Attanzi. Sì. E niente, finimmo con farci fare l'autografo e dicemmo: sì, ma si è fatto fare l'autografo di chi? Da domenica. Abbiamo preso una sola. Il Salone del Risparmio, adesso quell'autografo vale 5.000 euro. Esatto. No, la stessa domenica fece l'esordio, una partita, me la ricordo, incredibile. Sì. E niente, forse gli abbiamo portato un po' fortuna anche noi. E quindi se vuole fare un bonifico Buffon può farlo, poi insomma. No, e invece visto che portare fortuna, dov'è che ci vediamo giovedì prossimo? Che ristorante andiamo? Vabbè, ci mettiamo d'accordo dopo. Grazie a Fabio. San, buongiorno Verona. Ciao San. Sì, buongiorno. Ciao. Sono veramente felice oggi di parlare con voi. Praticamente sì, dalla tribuna, due minuti fa in panchina, oggi mi sento in campo praticamente parlare con voi. Esagerato. Calcio. Il mio punto è su due punti praticamente. Parlo di Rui Godin, ci siamo dimenticati di un signor allenatore veramente che dà la possibilità a tanti giovani. Io mi ricordo quando era ancora al Vicenza, da Luca Toni, poi è passato al Bologna quando è tirato Chiesa, oggi lo vediamo all'Udinese. Uno che lancia tantissimi giovani, veramente mi complimento con lui, è uno che veramente dà qualcosa al calcio italiano. Secondo me anche per la nazionale italiana dobbiamo vedere tanti giovani nella nazionale italiana, ormai ce ne sono parecchi in giro, veramente questo. Poi l'altro punto è su Moratti. Moratti ha fatto un grossissimo sbaglio, quando ha vinto le triplette, non ci dimentichiamo perché quella del campionato, perché l'ha vinto praticamente 5-6 partite, li ha vinti sempre all'ultimo minuto, doveva vendere tutti i giocatori, oggi ne ha guadagnato un sacco di soldi. Su questo sono d'accordo, abbiamo detto molte volte, probabilmente il peccato originale è stato quello, però bisogna anche capire che insomma c'è anche, per fortuna qualche volta c'è anche il cuore. Prima abbiamo sentito nel GR Adriana Fracchi a ricordare un mio mito personale, Kurt Cobain, no? Straordinario della sua scomparsa. Adesso sentiamo questa, però basta, ti faccio sentire una cosa. Gli bisticci, basta con ladri e Juventopoli e tutte quelle cose lì, basta, chiudiamo il campionato così come era iniziato, nel segno dell'amore. Thank you. campionato, ti amo campionato, perché non sei falsato, no no non sei falsato, a me mi è risembrato falsato. Altro mito della musica collegato con noi, Faso, bassista di... Ciao. Ciao. Ciao. Ti abbiamo convocato essenzialmente per un motivo, volevamo sapere se quello che ha detto Obama, che pare che abbia detto il signor Obama, cioè che il Colosseo è più grande di uno stadio da baseball, corrisponde al vero, cioè se ci sono, tu sei il massimo esperto in Italia del baseball, diciamo che prima di te, della tua presenza, nessuno in Italia avrebbe mai, no, non si sarebbe mai occupato del baseball, e invece tu hai dato a questo sport la dignità che merita. Elio, effettivamente il Colosseo potrebbe essere uno stadione di baseball grosso e ne ha anche vagamente le caratteristiche, perché se andate a vedere gli stadi di baseball, quelli più belli, storici, americani, Wrigley Field per citarne uno, che sono mattoncini, sembra proprio delle quasi delle costruzioni antiche, molto belle, affascinanti. Senti, ma stai per iniziare un programma, no? Stai per iniziare un programma televisivo sul baseball, un talk show in cui racconterai anche del malcostume baseball americano, perché anche lì c'è Baseballopoli, giusto? Ma guarda, no, proprio non no, è giusto no. Invece. No, ti do una brutta notizia, perché poi siamo abituati a dei livelli sportivi sotto il suolo, come etica e come... e come, diciamo così, messaggi edificanti. Invece il baseball è uno sport serio, dove per esempio, non so, l'anno scorso hanno beccato un giocatore che si doppava, Alex Rodriguez, e gli hanno dato tipo 150 partite di squalifica, senza possibilità di appello. Rod, io avrei dato più 150 milioni di dollari di multa, tanto può pagarli, visto che è uno degli sportivi più pagati del mondo, e già che c'ero mi sarei fatto dare anche l'agenda. Perché, Se no, c'è di meglio, quello che ha l'agenda più fornita è sicuramente Derek Jeter, che non ha problemi di doping, ma che ha annunciato quest'anno che smette, il campionissimo degli Yankees, che tra le varie sue fidanzate c'ha, non so, Jessica Biel, Jessica Hall, insomma queste ragazze, diciamo, carine. Sì, carine. Senti, Elio, come sta? Scusate se esco per un attimo dal magico mondo del diamante, che fra l'altro è per sempre. Elio, come sta? L'hai sentito dopo Inter-Udinese? Come sta, Elio? È perplesso? Com'è lì la situazione? L'umore è precipitato? Non ho capito di cosa stai parlando. Di Inter che ha pareggiato 0-0 con l'Udinese e Elio che mi risulta. Non lo so e non parlo di calcio e neanche lui. È un argomento che a me non interessa. Ho capito. Però ti posso parlare di baseball, non dovevamo parlare parliamo di baseball, sì. Ok, niente, dunque andiamo via da questa trasmissione su Fox Sport 2HD, dove approfitterò anche del spazio per spiegare un pochettino le regole di questo sport misterioso, che se però è lo sport più giocato al mondo, è il baseball nazionale in America, in Giappone, a Cuba, non sarà certo una cosa brutta, sarà una cosa interessante. Certo. Giocare, per esempio, pensare poi i vantaggi del giocatore di baseball. Gio Di Maggio si è sposato, storico Marilyn giocatore, Monroe. E Marilyn Monroe, la donna più amata e più apprezzata del mondo, insomma, mica male. Where no? Have you gone, Gio Di Maggio? Insomma, ci sono, è uno sport da scoprire. Io voglio farlo scoprire, mi piacerebbe riuscire, anche perché molti italiani, non conoscendolo, lo snobbano perché non capiscono. Ma sarebbe come guardare una partita di scacchi senza sapere le regole e dire che palle sto gioco, non è interessante. E invece è interessante, solo che devi conoscerne e apprezzarne le sfumature. Questo è chiaro. Io sono due giochi che non ho mai imparato, il baseball e la scala 40. Scala 40, non sono capacissimo. Poi c'è anche Machiavelli è bello perché ti serve un tavolo che è grande come il salone del risparmio, praticamente. Sì. Perché è vero, è vero. Tutte le carte. Va bene, ciao, Faso. Un super Faso. Ehi là. Ci seguiamo, vediamo se riesci a farmi capire il baseball. Ma io te lo posso spiegare in un minuto, sai che ho inventato la spiegazione del baseball in un minuto? Vai. Partiamo, via il cronometro, vai, stop al tempo, allora, via il cronometro, vai. Dai, via, siamo abituati a sport dove la palla, l'oggetto della contesa, la dobbiamo mettere nella rete, nel canestro, nella porta degli avversari per segnare un punto. Sì. Invece il baseball ha il principio contrario, la palla la possiede la difesa, in particolare il primo ad averla in mano è il lanciatore, quello che fa quel movimento un po' da ballerino, se per dirla così, che è poi Charlie Brown in Peanuts, che la lancia al suo compagno ricevitore, che è quello bardato come una una tartaruga ninja. Il primo avversario si presenta con la mazza, cosa vuole fare? Vuole colpire la palla, spararla lontano in modo che non sia presa dai difensori che sono in nove, stanno col guantone, e a quel punto comincia a invadere personalmente il territorio, cioè cerca di fare un giro delle quattro basi in senso antiorario. Quando un giocatore riesce a fare un giro delle quattro basi senza tornare e ritornare da dove è partito, segna un punto. Questo punto può essere segnato per battute progressive, come fa la difesa a arginare questa invasione, e deve eliminare tre attaccanti che sono diventati prima un battitore alla volta, che diventano corridori. Quando ne elimina tre, mettono giù i guantoni, prendono le mazze, vanno a battere loro. E peccato, è scaduto il minuto, Faso, proprio in questo momento. Però adesso spariamo, perché descrizione, stavo guardando l'orologio. Vabbè, ma io c'ho Piantanina qua che è un cerbero. Poi noi abbiamo questa Piantanina, che è un ragazzo talentuoso, ma in una fase ormai proprio di delirio, eh? La primavera fa i suoi effetti. È un grande sport il baseball, non c'è sì, che dire. Adesso proviamo qui alla bocca e spacchiamo tutti i vetri. Sì. Grazie Faso. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora andiamo a giocare a baseball. Sì, adesso guarda, giù, la prima cosa è... vado a fare il baseball. Allora, giornale oggi venerdì, noi ci vediamo lunedì. Sì, domenica, c'è il Capuano, signor Capuano, 17-19. Abbiamo altri programmi oggi dal Salone del Risparmio? Non lo so, adesso vediamo. No, è finito. Ci cacciano via. È finito, basta. Franco Piantanini, dottore di questo programma, Fabio Cantori qui in regia con noi. E Scaltritti oggi? Scaltritti è in redazione. Non lo ringraziamo perché è in redazione. Radio, eh? La Ligios. La Ligios è qui con noi. La folla che si è addensata. Ciao, baci. Ciao, ciao. Stefano Colantuono, buongiorno. Buongiorno a tutti. Colantuono, due punti, bene salvezzi, in futuro può essere l'Europa. Noi siamo abituati a lavorare in silenzio, ma è un po' la filosofia di questa terra, con tanta calma, senza esaltarci quando facciamo cose importanti come nell'ultimo periodo, ma senza neanche andare in depressione nell'eventualità dovesse arrivare qualche sconfitta. Credo che l'unico verbo sia il lavoro. Guido Meda, auguri. Grazie, che carini, grazie di cuore. Trovo che il fatto di aver ammesso Marquez alla KR ufficiale, anche se la regola l'anno prima non c'era, sia stato più un bene che un male a conti fatti. Si è meritato tutto quello che ha fatto e, come vedete, continua ad essere insieme a Rossi l'uomo che anima la MotoGP. Per quello che riguarda invece Valentino Rossi, rispondo a Carlo, intanto dico questo: un'altra volta ci è stato dimostrato che quando c'è una gara bella di mezzo lui c'è quasi sempre, cioè a 35 anni ha ancora un gusto per la bagarre ed è indomito quando si trova gomito a gomito con l'avversario. Marco Nosotti da Sky, ciao. Ciao Carlo, ciao. Come a stai? Te, un saluto a tutti, ciao. Senti, ma Pardo ti imita benissimo, tu sai fare l'imitazione di Pardo? No, perché non so quale sia la sua vera voce. Non lo sa nessuno. Lui dovrebbe parlare un falsetto, a dispetto della sua grande mole, una piccola voce, invece no, non lo so fare. Ho trovato mia moglie in giro a fare compere perché qualcuno con la mia voce gli aveva dato il permesso, mi ha rovinato. Balotelli è... Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?